Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Il Consiglio dei Ministri ha oggi convenuto sulla data del 4 dicembre prossimo dell'indizione da parte del Presidente della Repubblica del referendum popolare previsto dall'articolo 138 della Costituzione. Dunque, habemus datam, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, per quanto riguarda il referendum costituzionale, tanto dibattuto da mesi, è diventato un tormentone. Oggi è stato deciso dal Consiglio dei Ministri, avete sentito il sottosegretario De Vincenti, è stato deciso che la data sarà il 4 dicembre. Il 4 dicembre, quindi, si andrà a votare per decidere se questa riforma costituzionale piace o non piace, sì o no. Anche i vescovi dicono è un momento importante, informatevi, quindi sarà anche nostro compito, naturalmente, i giornalisti qui a Radio 24, di informarvi man mano sui contenuti, su quello che si va a votare il 4 dicembre. E naturalmente, qui Effetto Notte, poi sapete, un sacco di altri temi. Naturalmente parleremo delle presidenziali americane, perché stanotte, ora italiana, alle 3 di notte, faccia a faccia, attesissimo, il primo faccia a faccia tra i due candidati alle presidenziali americane 2016, Hillary Clinton e Donald Trump. Chi si dice che, come è stato anche in passato, si potrà vedere chi vince già nei primi 30 minuti. Nixon, pensate, solo asciugandosi il sudore aveva dato un segno, insomma, di debolezza e di tensione nel confronto con Kennedy. Poi, fra le varie cose, fra i vari temi, ci occuperemo anche delle novità che riguardano il caso del piccolo Loris ucciso vicino Ragusa in Sicilia. In carcere c'è la madre, lei adesso accusa il suocero di averlo ucciso. Insomma, molti temi, però prima di tutto la ricostruzione tra poco della giornata di oggi. E voi potete continuare a scrivere, come sempre, tutte le sere i vostri messaggi, le vostre opinioni sulla pagina Facebook di Effetto Notte, oppure usando il numero per WhatsApp ed SMS che è 349-238-6666, 349-238-6666. Referendum: si voterà il 4 dicembre per approvare o bocciare la riforma costituzionale. Economia rallenta la ripresa europea, dice il presidente della BCE Draghi all'Europarlamento, che esorta, dice Draghi, i paesi dell'Unione ad agire per dare più risposte ai bisogni dei cittadini. Lavoro e immigrazione, l'allarme dei vescovi, l'Italia fa molto ma è lasciata troppo sola, e intanto la Francia chiede alla Gran Bretagna collaborazione sulla gestione dei migranti. Presidenziali americane, Hillary e Trump testa a testa verso l'attesa sfida TV, nella notte primo confronto. Siria, alta tensione tra Stati Uniti e Russia, salta il nuovo summit, c'è l'allarme dell'Unione Europea, la Libia può diventare la nuova base per attacchi dell'ISIS. Svizzera, no del Canton Ticino ai frontalieri, ira italiana, gelo con l'Unione Europea, il ministro svizzero Gentiloni dice per ora nessuna conseguenza. L'omicidio del piccolo Loris, la mamma del bambino in udienza dice pronta a pagare ma è stato mio suocero, l'uomo replica troppo fango, voglio giustizia per il bambino. Cinema, il film sui migranti di Gianfranco Rosi, Fuoco a mare, il candidato italiano all'Oscar. E per il calcio, due posticipi di Serie A, Crotone-Atalanta finisce 1-3, ora in campo Cagliari-Sampdoria. Partiamo quindi dalla data del referendum costituzionale. Abbiamo sentito all'inizio che il 4 dicembre è stata decisa oggi dal Consiglio dei Ministri. Renzi avverte la partita è adesso e non tornerà, non ci sarà un'altra occasione, ma le opposizioni in coro criticano una data giudicata troppo lontana, mentre la maggioranza invita a parlare di contenuti. Il presidente della CEI, Angelo Bagnasco, nella prolusione al Consiglio permanente ha esortato i cittadini a informarsi e a votare, un appuntamento decisivo. Sentiamo allora l'annuncio del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio De Vincenti. Il Consiglio dei Ministri ha oggi convenuto sulla data del 4 dicembre prossimo dell'indizione da parte del Presidente della Repubblica del referendum popolare previsto dall'articolo 138 della Costituzione, referendum sul testo della legge di revisione costituzionale concernente disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo quinto della parte seconda della Costituzione. E qua già avete avuto un sunto dei contenuti di questo referendum, poi torneremo a parlarne tante altre volte, torneremo a parlarne anche qui a Effetto Notte stasera. Intanto parliamo anche di economia ed Europa, perché oggi il presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, è intervenuto al Parlamento Europeo, ha detto nelle regole esistenti c'è già molta flessibilità. It is important to ensure that the European Union meets the expectations of its people. È importante che l'Unione Europea vada incontro alle aspettative dei cittadini, concentrandosi sui bisogni reali degli europei, ristabilendo la fiducia tra stati e completando l'unione economica e monetaria. Il presidente della Banca Centrale Mario Draghi lancia una forte reprimenda a Bruxelles e ai paesi membri, sottintendendo che Francoforte non può più sostenere la ripresa economica da sola con gli strumenti eccezionali messi finora in campo. Anche per questo Draghi chiede ai governi nazionali di lavorare per la crescita, scatenandola. La disamina del presidente BCE sull'attuale situazione economica di fronte all'Europarlamento non è delle più incoraggianti. Ci aspettiamo che la ripresa nella zona euro continui a un passo moderato e stabile, ma con meno slancio di quanto previsto a giugno, ha detto Draghi aprendo l'intervento. Tuttavia, ha precisato, l'economia dell'eurozona è resiliente all'incertezza politica globale, in particolare dopo il referendum britannico. Proprio la Brexit occupa un posto importante nelle sue considerazioni. L'impatto iniziale dell'uscita di Londra dall'Unione ha avuto effetti contenuti, spiega, ma è difficile fare previsioni sul lungo periodo. Più lunga l'incertezza, maggiori i rischi, riassume. Il presidente della BCE ha ribadito infine che Francoforte è pronta ad agire con tutti gli strumenti se necessario. Ha reso omaggio a Ciampi e ha notato che la situazione dei mercati finanziari è ampiamente migliorata. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Lavoro e immigrazione, c'è l'allarme dei vescovi. Nella sua prolusione il cardinale Angelo Bagnasco al consiglio permanente della CEI, come di consueto ha parlato dei temi di maggiore attualità. A proposito dei migranti, ha detto che oggi c'è bisogno di maggiore Europa, parla di un'Italia in prima linea ma ancora troppo sola nell'affrontare il dramma dei migranti, si sofferma sulla crisi del lavoro, il disagio della flessibilità e il rischio che i giovani se ne vadano dal nostro paese. Siamo fortemente preoccupati, ha detto, che il patrimonio di capacità e di ingegno del nostro popolo sia costretto a emigrare. Sentiamolo. L'Italia in prima linea e nonostante difficoltà oggettive continua a fare tutto il possibile su questo fronte che la vede ancora troppo sola. Le comunità cristiane cercano di allargare gli spazi dell'accoglienza e soprattutto del cuore, affinché si vada oltre l'emergenza verso percorsi di integrazione per quanti, mostrando consapevolezza e impegno, desiderano rimanere. E intanto anche in Francia, in vista delle presidenziali di primavera, il tema dell'immigrazione è uno dei principali. Oggi ne ha parlato il presidente Hollande. La Francia ci riprova. Entro fine anno smantelleremo definitivamente il campo profughi di Calais, ribadisce il presidente Hollande, che per la prima volta visita la cittadina francese, ma non le bidonville, la cosiddetta giungla. Lì vivono migliaia di rifugiati, al momento 10.000, che tentano di oltrepassare la Manica e raggiungere l'Inghilterra. E proprio al Regno Unito il leader francese fa un appello. Voglio esprimere la mia determinazione affinché le autorità britanniche prendano parte allo sforzo umanitario che la Francia compie qui e continuerà a compiere, dice Hollande. Dal canto suo, la Gran Bretagna ha iniziato a costruire il muro, alto 4 metri e lungo 2 chilometri, per impedire ai migranti di salire sui tir diretti all'imbarco per Dover. Tema immigrazione sempre caldo, anche in Italia. Il ministro Alfano, oggi in visita a Lampedusa e Pantelleria, spiega: stiamo lavorando a una task force per controllare che i centri d'accoglienza funzionino. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E arriviamo così alle presidenziali americane. Hillary e Trump testa a testa verso l'attesa sfida TV. Questa notte succederà alle 3 ore italiana. I candidati alla Casa Bianca si sfideranno in un duello televisivo sulla CNN davanti, pensate, a 100 milioni di spettatori. Secondo un sondaggio condotto dal Wall Street Journal e dalla NBC, un terzo degli elettori americani aspetta il primo dibattito presidenziale per decidere chi votare. Quindi c'è un gran numero di indecisi. Si tratta del primo dei tre appuntamenti che scandiranno il percorso di avvicinamento al voto dell'8 novembre. Ancora all'estero, e sempre negli Stati Uniti, l'uomo che oggi ha aperto il fuoco in un centro commerciale di Houston, in Texas, è morto dopo essere stato colpito dalla polizia. Si tratta di un avvocato e nella sua auto sono state rinvenute armi e munizioni. I feriti della sparatoria sono 9, di cui 2 in gravi condizioni. E c'è la Siria, dove c'è sempre alta tensione anche tra Stati Uniti e Russia. Sulla Siria salta infatti il nuovo vertice, il nuovo summit. La Russia replica le accuse da parte di Stati Uniti e Gran Bretagna sulla crisi siriana, giudica inaccettabile il tono di alcuni funzionari e parla di retorica che può provocare grave danno al processo di pace in Siria. Al punto, dice la Russia, che al momento non ha senso un summit sulla situazione del paese. Nel frattempo arriva l'allarme dal coordinatore europeo antiterrorismo, Kerkhove, che dice dice che l'esodo di migliaia di combattenti dalla Siria potrebbe voler andare in altri punti caldi come la Libia o venire in Europa. L'ISIS potrebbe utilizzare armi chimiche o un'autobomba. La Libia, mette ancora in guardia De Kerchove, potrebbe diventare il luogo per l'ISIS da cui pianificare gli attacchi per l'Europa. E passiamo alla Svizzera, no del Canton Ticino ai frontalieri, ira dell'Italia, gelo con l'Unione Europea, anche se il ministro svizzero dice a Gentiloni per ora nessuna conseguenza. Voto del Canton Ticino o meno, le restrizioni per i lavoratori europei in Svizzera sul tappeto ci sono ormai da 3 anni. Gli svizzeri, tutti e non solo i ticinesi, in tal senso avevano già votato nel febbraio 2014 dando mandato di trattare con Bruxelles misure più restrittive che dovrebbero entrare in vigore nel febbraio prossimo. Ad oggi però l'accordo non c'è e senza un regolamento tutto rischia di saltare. A votare per la chiusura ai frontalieri italiani sono stati ora quegli stessi ticinesi che 3 anni fa lo chiesero in massa e ora premano su Berna perché faccia scattare le restrizioni. Ma c'è un ma. Proprio il voto di ieri complica le cose. Il risultato non renderà più facili i negoziati già in corso, si è affrettato a chiarire Bruxelles. Juncker ha incontrato solo una settimana fa il presidente della Confederazione Elvetica e lo rivedrà a ottobre. Un nodo però resta imprescindibile, ha chiarito il portavoce della Commissione europea Margaritis Schinas. Le 4 libertà del mercato unico sono inseparabili, cosa che nel contesto svizzero significa che la libertà di circolazione dei lavoratori è fondamentale. Dunque, un no all'Italia rischia di trasformarsi in un braccio di ferro con l'Europa. Anna Migliorati, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Di nuovo in Italia con la cronaca, è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio anche il terzo aggressore che il 18 settembre scorso ha picchiato Maurizio De Francesco Antonio all'interno della metropolitana di Roma. Gli altri 2 aggressori erano già stati arrestati poco dopo i fatti di una settimana fa. E c'è una riduzione di pena in appello per Marco Di Muro, il 21enne di Formello, accusato dell'omicidio della fidanzata di 16 anni, Federica Mangiapelo, trovata morta sulla riva del lago di Bracciano la notte di Halloween del 2012. 14 anni di reclusione per omicidio volontario aggravato gli sono stati inflitti dalla prima corte d'assise d'appello di Roma, 4 quindi in meno rispetto alla sentenza di primo grado pronunciata dal GUP di Civitavecchia a conclusione del processo con rito abbreviato. E poi Ragusa per le ultime dell'omicidio sul piccolo Loris. Veronica Panarello, la madre di Loris, torna ad accusare il suocero, però di questo poi torneremo a parlare per entrare più nei dettagli qui a Effetto Notte più tardi. C'è una ricerca dell'Istat, un sondaggio sulla giustizia, sull'opinione che ne hanno gli italiani. Secondo i dati Istat, un italiano su 2 è insoddisfatto di come funziona la giustizia civile in Italia. Un dato piuttosto grave, un italiano su 2. Negli ultimi 3 anni, riferisce il report, ben 1.555.000 persone hanno deciso di rinunciare ad avviare una causa civile in Italia per il timore di sostenere costi troppo elevati, il 30,8%, per l'incertezza sui tempi di svolgimento, il 25%, o dell'esito favorevole, il 15,5%. E c'è anche una notizia che riguarda il Salone del Libro di Torino. Il Salone del Libro si terrà dal 18 al 22 maggio del prossimo anno. Le date sono state decise dall'Assemblea dei Soci della Fondazione per il Libro, l'ente promotore della Kermesse. Alla guida della Fondazione ci sarà l'ex ministro Massimo Brai. E per il cinema, il film sui migranti di Gianfranco Rosi, Fuoco a Mare, è il candidato italiano all'Oscar. Più tardi torneremo anche su questo argomento. E poi per chiudere c'è il calcio con i posticipi di Serie A. C'è Dario Ricci per noi, Dario. Eccoci qua, Roberta. Allora, il primo posticipo si è già concluso, ha visto l'Atalanta passare sul campo del Crotone per 3-1. Attualmente in campo invece Cagliari e Sampdoria, al Sant'Elia di Cagliari siamo al 16° del primo tempo, risultato ancora fermo sullo 0-0. Grazie Dario Ricci, poi dopo ci sentiremo come al solito per capire se ci sono altri gol, come procede la partita. Invece sto vedendo che procedono i vostri messaggi già al 349-238-6666, che è il numero per WhatsApp e SMS, oppure sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Alessandro per esempio dice: il 4 dicembre decreteremo la fine di Renzi, votato da nessuno, dice Alessandro, e comincia naturalmente oppositori e sostenitori. E poi invece a proposito delle presidenziali americane, Simone scrive: vince Trump, è un uomo imprevedibile, va sopra le righe e scompagina, in poche parole va bene per la TV anche se non lo voterei mai, la Clinton è saccente e noiosa, fa crollare l'audience. Alessandro in proposito dice: Trump, al di là di come la si pensi politicamente, è un animale da palcoscenico, la Clinton è secchione e frigida, non c'è partita. E poi altri messaggi, ma ci sentiamo dopo la viabilità. JP Morgan Asset Management vi presenta Effetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano con voi, avete sentito intanto il racconto della giornata e poi in questi 60 minuti complessivi approfondiremo naturalmente come sempre alcuni temi in particolare con gli ospiti, intanto i vostri messaggi tra la pagina Facebook di Effetto Notte che è sempre lì per voi giorno e notte oppure il numero per messaggi WhatsApp che è 349-238-6666, vedo messaggi sul faccia a faccia che ci sarà questa notte ora italiana tra Trump e Hillary Clinton, e poi sul referendum la data del 4 dicembre, anche il tema della giustizia, avete sentito i dati Istat piuttosto sconfortanti, un italiano su due non ha fiducia nella giustizia. Rosanna dice sono tra coloro che dice ha rinunciato per tutte e tre le motivazioni che prima si elencavano, torto collo, rinunciato, nessuna fiducia nella giustizia. Luciano, la giustizia in Italia è come un labirinto, cause più brevi e tempi minori, abbiamo tantissimi avvocati, se i giudici non ce la fanno perché non trasformare gli avvocati in giudici? Un po' complicato Luciano. E poi per il referendum Simone dice sarò all'estero, meno male, mi risparmierò questa specie di psicodramma sulla Costituzione più bella del mondo e quindi immodificabile per antonomasia. Resteremo l'unico paese al mondo incapace di adeguare ai tempi le proprie istituzioni e bloccate al 1946. Mentre Clotilde scrive certo che Renzi è senza vergogna, chi non parla di contenuti è lui, parla dei proclami, si sottrae ai confronti seri, non capisco tutta l'unanimità di TV e stampa, spero che voi parlerete anche delle ragioni del no. Certamente Clotilde, parleremo delle ragioni del sì e delle ragioni del no, e in parte già cominceremo a parlarne tra poco, poi le informazioni sul referendum abbiamo tempo fino al 4 dicembre, intanto vi ricordo quali sono le notizie più importanti della giornata. Renzi decide la data del referendum, si vota il 4 dicembre, le opposizioni attaccano ancora e poi la CEI dice ai cittadini informatevi. Stati Uniti 2016, Hillary Clinton, cioè le presidenziali, Hillary Clinton e Trump testa a testa verso la sfida TV nella notte, primo confronto e Hillary sarebbe in leggero vantaggio secondo i sondaggi. Il presidente della Banca Centrale Europea, Draghi, che dice l'Unione Europea pensi ai bisogni reali dei cittadini, per la flessibilità dice già insomma c'è abbastanza flessibilità. Intanto slitta il confronto sulle pensioni per quanto riguarda l'Italia. No del Canton Ticino ai frontalieri, ira italiana, gelo con l'Unione Europea, mentre il ministro, l'omologo del nostro ministro Gentiloni, svizzero, dice per ora non c'è nessuna conseguenza. Alta tensione tra Stati Uniti e Russia sulla Siria, salta il nuovo vertice. E poi la mamma di Loris, del bambino ucciso vicino a Ragusa, sono pronta a pagare, ma è stato mio suocero. Fuoco a mare e i suoi migranti è il candidato italiano all'Oscar. Il Consiglio dei Ministri ha oggi convenuto sulla data del 4 dicembre prossimo dell'indizione da parte del Presidente della Repubblica del referendum popolare previsto dall'articolo 138 della Costituzione, referendum sul testo della legge di revisione costituzionale concernente disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo quinto della parte seconda della Costituzione. Dunque, come vi dicevo, habemus datam, o come preferisce dire in modo più ortodosso un ascoltatore, habemus diem, era attesa la decisione da tempo sulla data di questo referendum costituzionale. Oggi il Consiglio dei Ministri, lo avete sentito per voce del sottosegretario De Vincenti, ha preso quindi questa decisione in mezz'ora. Il referendum quindi sulla riforma della Costituzione, sulla parte seconda, si terrà il 4 dicembre. Renzi aprirà la campagna per il sì al referendum il prossimo 29 settembre a Firenze, poi ci saranno numerose altre tappe fino al 4 dicembre. Dalle opposizioni però arrivano critiche, ci libereremo di Renzi, dice qualcuno, è la data di scadenza del governo Renzi. Ne parliamo con Barbara Fiammeri, commentatrice politica del Sole 24 Ore. Cara Barbara, ben ritrovata. Buonasera a tutti. Quindi, tra l'altro, le opposizioni, dicono Barbara, è stata una decisione antidemocratica quella di Renzi perché non ne ha discusso sulla data con le opposizioni. Come si risponde? Diciamo che questa cosa della data secondo me ha preso anche troppo tempo e troppe pagine di giornali. In realtà la data del 4 dicembre è funzionale a un obiettivo di cui Renzi aveva parlato anche con il capo dello Stato Sergio Mattarella, ovvero riuscire a mettere in se non al sicuro, insomma, la legge di stabilità, perché si prevede che entro la fine di novembre la legge di stabilità possa avere il sì di una delle due Camere e abbia già il parere della Commissione dell'altra Camera, quindi sarebbe a uno stato avanzato dell'iter. E questo perché sappiamo appunto quali possano essere le conseguenze del referendum, e pensare di arrivare in una situazione con una crisi politica, eventualmente con la legge di stabilità ancora non approvata da nessuno dei due rami del Parlamento, sarebbe stato insomma abbastanza preoccupante. Cioè, la ragione della data poi in realtà è questa: 27 novembre o 4 dicembre avrebbe fatto poca differenza, se non che il 27 novembre la settimana precedente, cioè tra il 20 e il 27, probabilmente si sarebbe dovuto si voterà la finanziaria in una delle due Camere, per cui i parlamentari sarebbero stati al chiodo, diciamo, e la campagna referendaria inevitabilmente ne avrebbe risentito. Questa è la spiegazione, diciamo, della data. Per il resto, insomma, è ovvio che le opposizioni giustamente fanno un po' di cancan su questo, e adesso comincia la campagna elettorale vera, insomma. Perché finora, questo, diciamo, ce n'è stata in abbondanza da un lato e dall'altro, però adesso si entra ufficialmente. Sì, però, no? Però come sempre avviene anche nelle elezioni politiche, insomma, poi è l'ultimo mese, due settimane di campagna elettorale che determinano un risultato politico. È sempre stato così, e penso che anche in questo caso sarà così. Barbara Renzi dice: questa Italia deve cambiare, non può rimanere ostaggio dei soliti noti, della solita palude che ha bloccato le crescite dell'ultimo ventennio, ecco perché il referendum costituzionale è fondamentale, anche se invece dalla parte degli oppositori, quindi ci sono i sostenitori da una parte, gli oppositori che dicono quella sarà la data di scadenza del governo Renzi, perché abbiamo visto, insomma, che Renzi stiamo assistendo a un cambio di posizionamenti, no? Noi sì. Abbiamo avuto all'inizio Renzi che appunto aveva personalizzato la campagna dicendo sostanzialmente facendo quasi un referendum su se stesso. Se vince il no, me ne andrò, per dire, continuare. Adesso è l'opposizione che, più che sulle ragioni del no alla riforma costituzionale, cerca di coagulare i consensi sulla scadenza di Renzi, cioè dicendo appunto, come ha detto oggi anche Salvini, ma anche altri, coincide con mandiamo a casa il governo. Quindi di fatto, facendone una questione molto politica, diciamo, più che sui contenuti della riforma, sì o no. Adesso però, ripeto, la campagna elettorale deve entrare nel vivo, e sicuramente ci saranno momenti di confronto anche sul merito di questa riforma. Chiaro, almeno è chiaro, perché le persone devono capire, no, cosa andare a votare, se sì o no, in base ai loro convincimenti. Cioè, fra l'altro, ricordo, scusami Barbara, che il quesito sarebbe questo, in sintesi: approvate voi il testo della legge costituzionale concernente disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo quinto, parte seconda della Costituzione, delle competenze degli uni e degli altri. Insomma, sì. Quindi sicuramente avremo tempo nei prossimi giorni. Tu ci aiuterai anche tu, Barbara, a entrare nel merito di questo referendum. Grazie intanto, Barbara Fiammeri. Grazie a voi. Ciao Barbara, buona serata. E intanto sul blog di Grillo, a proposito di politica, dice: domani iniziamo le votazioni per consentire a tutti gli iscritti del Movimento 5 Stelle di decidere se e quali modifiche apportare al non statuto e al regolamento del Movimento 5 Stelle. Questo non statuto fa in mente quasi Alice nel Paese delle Meraviglie con il non compleanno. E poi c'è tutta la polemica di Roberta Lombardi, del Movimento 5 Stelle, della prima ora, la senatrice, che dice: Di Maio, Di Battista non sono loro i leader. Anche di questo ci sarà tempo comunque di parlare nei prossimi giorni. Intanto i vostri messaggi continuano. Per esempio Franco scrive: ma Renzi non diceva che la riforma costituzionale era urgentissima? Mentre Giuliano scrive: finalmente. Continuate sulla pagina Facebook di Effetto Notte e al 349-238-6666. Ci sentiamo dopo questa pausa. State ascoltando un programma offerto da Microsoft Dynamics, soluzioni ERP e CRM per accelerare il tuo business. Effetto Notte. Le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice Roberta Giordano con voi. Continuano i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte e anche i WhatsApp e gli SMS al 349-238-6666. Riassunto della giornata, l'avete sentito la prima parte, poi abbiamo parlato di politica, di questa decisione stasera del Consiglio dei Ministri per la data del referendum. Si voterà il 4 dicembre con sostenitori, oppositori, e poi man mano cercheremo di capire anche nelle prossime settimane quali sono i contenuti, andare nel merito, anche se questo ascoltatore Max Taxi dice: questo referendum non è sulla Costituzione ma sul sì o no al governo Renzi. Credo che molta gente voterà su questo, non sul contenuto ma sulla conseguenza del voto. Come si diceva prima, è stata un po' colpa di questa personalizzazione inizialmente di Renzi, anche se ha cambiato un po' posizione. Poi ognuno insomma deciderà in che senso votare, per quale motivo votare o sì o no. Gli altri messaggi, dice un altro ascoltatore: dopo Renzi il nulla deve vincere. Poi Renato Bertuzzi: è sufficiente una sola ragione per votare no, se il Senato è superfluo bisognerebbe eliminarlo. Poi Ilaria invece sui dati Istat molto sconfortanti sulla giustizia, l'avete sentito prima, secondo questo rapporto un italiano su due non ha fiducia nella giustizia civile in Italia e 1.555.000 persone hanno rinunciato al cause per le lungaggini, per le spese eccetera. Dice Ilaria: anche sui tempi della giustizia si misura il grado di civiltà di un paese, senza dubbio. Costringere a rinunciare ad intentare una causa per timore di lungaggini e spese per me è una grave limitazione dei diritti dei cittadini, e Ilaria si sicuramente ragione. Tra poco però ci spostiamo negli Stati Uniti, ma intanto vi ricordo, se non avete acceso puntualmente la radio alle 21, quali sono le notizie più importanti della giornata. Referendum: si voterà il 4 dicembre per approvare o bocciare la riforma costituzionale. Economia: rallenta la ripresa europea, dice il presidente della BCE Draghi, che esorta i paesi dell'Unione ad agire per dare più risposte ai bisogni dei cittadini. Lavoro e immigrazione: l'allarme dei vescovi, l'Italia fa molto ma è lasciata troppo sola. Intanto la Francia chiede alla Gran Bretagna collaborazione sulla gestione dei migranti. Presidenziali americane, ne parleremo tra pochi istanti. Svizzera: non del Canton Ticino, ai frontalieri, ira italiana e gelo con l'Unione Europea, anche se il ministro svizzero dice per ora non c'è nessuna conseguenza concreta. L'omicidio del piccolo Loris, la mamma del bimbo in udienza dice pronta a pagare ma è stato mio suocero. L'uomo replica: troppo fango, voglio giustizia per il bambino. E poi per il calcio, Cagliari-Sampdoria, questi posticipi di Serie A 0-0, mentre Crotone-Atalanta è finito 1-3. Poi per il cinema, Fuoco a mare è il film italiano candidato all'Oscar. E adesso l'appuntamento più importante, più atteso della campagna elettorale americana è arrivato ormai alle 3 ora italiana, questa notte quindi per quanto riguarda l'Italia. Hillary Clinton e Donald Trump si sfideranno per 90 minuti nel primo dibattito presidenziale, anche se secondo l'esperienza e tanti esempi che ci sono stati nella storia basteranno i primi 30 minuti per capire chi avrà la meglio, almeno di questo primo incontro, che sarà effettivamente uno show aiutato questa spettacolizzazione non solo dall'attesa che c'è, dal fatto che ci sono 100 milioni di spettatori, ma anche perché Trump, sappiamo, è un personaggio un po' particolare. Marco Valsania, corrispondente del Sole 24 Ore da New York. Ciao Marco. Ciao. E anche tu naturalmente sarai tra i 100 milioni di spettatori, un record. Sì, sarò, credo, proprio tra quello che sembra saranno appunto 100 milioni di spettatori, un record che non si registrava, anzi che batterà il precedente massimo storico che era stato raggiunto in altra epoca, cioè nel duello fra Ronald Reagan e Jimmy Carter nel 1980 ormai, che era stato attorno agli 80 milioni. Questo testa a testa, perché tra l'altro nei sondaggi sono testa a testa, no? E quindi dovranno convincere soprattutto gli indecisi, perché non è che penso cambierà questo confronto l'opinione di quelli che hanno già deciso chi votare, no? Marco? Sì, c'è una posta in gioco è decisamente alta in questo dibattito, più alta che i normali forse dibattiti a questo punto della campagna elettorale americana in altri momenti. Come dicevi tu, c'è una larga percentuale di indecisi. Nei sondaggi un terzo degli elettori dice che ascolterà con estrema attenzione il dibattito e potrà influenzare la loro decisione di voto. Un po' più accentuata la percentuale di repubblicani che o di potenziali repubblicani, elettori repubblicani che aspetta, diciamo così, dritte dal dibattito, un po' meno pronunciata quella dei potenziali elettori democratici, ma comunque significativa. E c'è poi quello che ricordavi, il bacino di voti dei candidati minori, in particolare il candidato libertario Gary Johnson, che è attorno al 10% nei sondaggi, è diventato un po' il portabandiera, la scelta da parte di elettori che sono sfiduciati sia da Donald Trump, ma che non sono convinti neppure da Hillary Clinton. Quindi un bacino significativo, soprattutto negli stati incerti. Certo, c'è Doris da Trieste che scrive: il presidente americano non deve essere un intrattenitore. Americani, se votate Trump, quindi lancio un appello agli americani, Doris, mostrerete il peggio di voi, che Trump riassume in pieno. Come dicevi tu, Marco Valsani, Hillary Clinton deve riuscire a piacere, a dimostrare che di lei ci si può fidare, no? Trump invece deve convincere che lui è un'alternativa credibile, perché è sicuramente personaggio, ma per molti è più un personaggio bizzarro, che, anche se insomma sono appunto testa a testa nei sondaggi, dicevamo, no? Sì, diciamo che la posta in gioco è elevata per tutte e due. Per Trump forse può essere ancora più elevata, perché deve dimostrare di fatto davanti a un elettorato nazionale di dimensioni, appunto, con ogni probabilità record, di avere la statura del potenziale presidente. Ecco, quindi dovrà calibrare quella che è la sua natura, quelle che sono le sue i tratti che più lo accattivano alla sua base, cioè i toni aggressivi, le battute anche pesanti, però calibrare questo con un atteggiamento non arrogante, con un atteggiamento non volgare, con una conoscenza, anche una dimostrazione di sapere quello di cui parla, che a volte è uno degli elementi così che solleva interrogativi. Mentre Hillary Clinton dovrà soprattutto dimostrare di avere di saper ispirare, di poter mobilitare le persone, di poter essere un candidato capace di portare il paese nel futuro, di ispirare fiducia, ecco, come dicevamo, e questa è la sua, finora è stata la sua grande tallone d'Achille. Questa sarà veramente una sfida avvincente, gli americani la seguiranno, abbiamo detto, in 100 milioni alle 3 ora italiana stanotte, insomma, ma lì cosa è sera, no? Che ore saranno? Sì, le 9 di sera, quindi in prime time televisivo dall'Università di Ostra, qua nel Long Island. Quindi diciamo così nella patria di entrambi i candidati, perché comunque New York State, da dove Hillary è stata senatrice e dove Donald Trump ha costruito buona parte dei suoi palazzi. Scopriremo domani com'è andata. Grazie a Marco Valsani da New York. Ciao Marco. Grazie a voi. Adesso invece torniamo sulle notizie italiane, in particolare sulla cronaca, la cronaca nera, con l'omicidio del piccolo Loris Stival di 8 anni, vi ricordate, avvenuto a Santa Croce di Camerina, vicino a Ragusa, in Sicilia, il 29 novembre del 2014. Sono già passati 2 anni in carcere da diverso tempo, e imputata per questo omicidio c'è la madre di Loris, che si chiama Veronica Panarello, che man mano nel tempo ha cambiato varie versioni su come sono andate le cose. Nell'udienza di oggi però ha ribadito una cosa che già qualche tempo fa aveva detto, e cioè che lei aveva una relazione con il suocero, quindi con il papà, con il padre del papà di Loris, e che sarebbe stato il suocero a strangolarlo. Ma ci racconta un po' meglio quali sono le novità Alessandra Ziniti, giornalista di Repubblica. Buonasera Alessandra. Sì, buonasera. Sì, questa sembra essere la versione definitiva di Veronica, o almeno è quella che ha dato alcuni mesi fa al pubblico ministero e che oggi ha ribadito in udienza davanti al giudice, che entro metà ottobre dovrà emettere la sentenza nel processo che, dobbiamo ricordare, vede soltanto lei al momento imputata di omicidio volontario, mentre il suocero Andrea Stival, che lei adesso accusa, in questo processo è parte civile. Esiste un procedimento stralcio aperto dopo le dichiarazioni accusatorie di Veronica, in cui lui è indagato, ma da quello che sembra la procura non crede a Veronica, perché la sua la sua ultima versione non è suffragata da alcuna prova e quindi questo procedimento parallelo sembra destinato ad un'archiviazione prossima. Alessandra, sentiamo, visto che lo citavi appunto, il nonno di Loris, il suocero di Veronica, quello che lei accusa, sentiamo che cosa ha detto. Io voglio solamente pace per quel bambino, dignità per una famiglia e rispetto per una famiglia che sta attraversando un dolore immenso. Solo questo. Alle ultime parole di non mi interessa niente, dal resto non mi interessa niente. Basta, solamente pace. Ora invece sentiamo l'avvocato Villardita, che è il legale di Veronica Panarello. Veronica Panarello, parlando col giudice, ha detto in maniera chiara: non voglio esimermi dalle mie responsabilità, voglio essere punita, ma voglio essere punita per quello che ho commesso e non per quello che non ho fatto. Non posso dire assolutamente, neanche sotto costrizione, di essere stata io a uccidere mio figlio. Se ci sono delle responsabilità mie, pagherò, però assieme a me deve pagare l'autore materiale del delitto, che ha indicato ulteriormente, nuovamente, senza alcun tipo di titubanza, nel suocero Andrea Stival. Questo è l'avvocato di Veronica Panarello, Alessandra, però dicevi che insomma, secondo i PM non c'è molta consistenza, fondatezza in questa versione. Lei dice che è stato lui, c'era una relazione tra di loro e il bambino aveva capito che c'era questo rapporto e quindi si doveva... diciamo, guarda, io seguo questa vicenda dal primo giorno. Allora, nell'impianto accusatorio che la procura ha portato a processo ci sono delle prove consistenti a carico di Veronica, che sono innanzitutto le sue bugie, quelle che ha detto sin dal primo giorno, da quando ha detto di aver lasciato il bambino a scuola, cosa che poi si è rimangiata dopo 9 mesi, dopo che le telecamere di quel paese, che sono tante, tantissime, perché Santa Croce Camerina è un paese pilota nel PON sicurezza del Ministero dell'Interno, quindi tutto il percorso che ha fatto Veronica quella mattina in auto è stato ripreso dalle telecamere, quindi diciamo la sua versione, la sua prima versione è stata smentita. Le prove a carico di Veronica sono tante. Quello che manca nell'impianto dell'accusa è il movente, perché non si capisce perché Veronica dovrebbe avere ucciso suo figlio. Veronica adesso dà un movente, che è un movente compatibile con quello che sin dal primo giorno si diceva in paese, perché le tante dicerie di paese dal primo giorno parlavano di questa presunta relazione tra lei e il suocero. Naturalmente dalla relazione a dare dell'assassino al suocero ce ne corre. Cioè, senti Alessandra, quindi, però tu dici di queste voci che appunto anche io ho sentito, quindi ma i giudici non è questione di pettegolezzo chiaramente, ma di ricostruire la realtà, danno credito al fatto che ci fosse una relazione ma non al fatto che lui lo abbia ucciso? Sì, i giudici non si esprimono su questo, la procura non si esprime su questo, però diciamo viene ipotizzato come possibile, anche perché i contatti telefonici di quei giorni, di quelle settimane, di quei mesi precedenti tra Veronica e il suocero sono oggettivamente tanti, ma non esistono intercettazioni né messaggi, per cui non se ne conosce il contenuto. Però resta il fatto che Andrea Stival non viene visto mai quel giorno né entrare né uscire da quella casa, né le telecamere lo riprendono mai mentre sale a bordo della macchina di Veronica, che è il mezzo con cui secondo lei lui sarebbe entrato in casa, per cui lei lo accusa di aver strangolato il bambino a casa, ma non si capisce come Andrea Stival sarebbe entrato in quella casa. Bene. Alessandra Zaniti, nel frattempo ti ringrazio, giornalista di Repubblica, e poi seguiremo appunto, visto che hai detto che entro breve, no? Entro metà ottobre dovrebbe arrivare la sentenza. Sì, entro metà ottobre, sì. Benissimo, ci risentiamo magari in quell'occasione. Grazie Alessandra. Va bene, grazie a voi. Buona Ciao, buon lavoro. Viabilità. Axerta indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Roberto Giordano sempre con voi, stavo guardando anche le agenzie che arrivano, c'è una dichiarazione di Renzi sulle pensioni, dice punto al raddoppio della 14ª fino a 1000 euro, poi vediamo se riusciamo a sentirne qualche passaggio a quinta colonna, la trasmissione quinta colonna. Intanto, mentre voi continuate con i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte al 349-238-6666, il numero per SMS e WhatsApp, vi ricordo quali sono le notizie principali.

grandissimo successo, aveva già vinto l'Orso d'Oro a Berlino e Meryl Streep in quell'occasione aveva detto a Gianfranco Rosi: spero di rivederti agli Oscar, quindi lei già lo aveva in un certo senso benedetto. La strada è lunga per arrivare agli Oscar però, perché ogni paese decide un candidato. Poi si fa una short list, una lista di qualche decina di candidati. Poi a gennaio ci sono le 5 nomination e poi a febbraio l'Oscar. Quindi bisogna superare un po' di step, bisogna insomma tenere i nervi saldi. E per Gianfranco Rosi bisogna fare molta promozione in questo periodo. Tra l'altro mi pare che già in 60 paesi, no, è stato diffuso il suo film, Marta? Sì. Tra l'altro, oggi Gianfranco Rosi era inaccessibile, irraggiungibile, perché era in Francia, era a Parigi, proprio per promuovere il film. Lui sta facendo in realtà da mesi questo giro del mondo, perché sta portando di persona il film, perché ovviamente è un film che va accompagnato, che va spiegato. Il dottor Bartolo, che è il protagonista del film, accompagna spesso, tra ovviamente nelle pause del suo lavoro, Rosi, perché il pubblico e la stampa vogliono incontrare anche lui per capire cosa c'è dietro questo documentario. Marta, non tutti però sono stati contenti. Secondo, infatti, perché è stato scelto un documentario a rappresentare l'Italia, tutti dicono una scelta un po' strana, che non sia un film vero e proprio in senso tradizionale, no? Allora, in realtà ha detto una cosa molto interessante Paolo Sorrentino. Lui ha detto: Fuoco a Mare sarà comunque molto probabilmente candidato tra i documentari, perché è iscritto anche per essere candidato tra i documentari. Quindi lui giustamente ha detto: potevamo portare un altro film di finzione, come film in lingua non inglese, in modo da avere due film italiani diversi agli Oscar. Lui tifava per Indivisibili, bellissimo film che peraltro esce in questi giorni, e quindi lui diceva: portiamo alla fine due film invece di uno solo, quindi è un po' autolesionista puntare solo su Fuoco a Mare. Questo è stato il suo pensiero, e diciamo che pare che abbia vinto 5-4 Fuoco a Mare, quindi c'era questo dibattito. Beh, insomma, poi ti dice, passerà tutti questi step e vedremo quale sarà poi l'esito. Grazie tanto, Marta Cagnola. Ciao. Grazie, Marta. Grazie, a presto. Ciao. Dario Ricci, ci aggiorni sugli ultimi esiti delle partite? Eccoci qua, siamo nell'intervallo. Sì, siamo nell'intervallo di Cagliari-Sampdoria. Il Cagliari è in vantaggio per 1-0 grazie alla rete di João Pedro al 36esimo. Bellissima la discesa sulla sinistra di Padoin, il cross era su terra al centro e João Pedro non ha dovuto far altro che toccare il pallone per siglare l'1-0. Un Cagliari che ha perso per infortunio alla mezz'ora il portiere Storari, sostituito da Rafael. Vi ricordo che invece nell'altro anticipo di giornata l'Atalanta è passata sul campo del Crotone per uno Petagna, Kurtic e Gomez in rete per gli Orobici. All'86esimo la rete della bandiera del Crotone di Simi. Grazie Dario Ricci, noi ci risentiamo alle 22.